medicina. Non soltanto non riguarda le cose. Non sperare che si fermino. Sarò eletto qui. Quelle picche, quelle sono per le nostre teste.